Benvenuti, grazie a tutti. Sono molto lieto di essere qui per questa presentazione di Senza riparo, sei tentativi di leggere il presente. Io mi chiamo Giulio Azzolini e di professione insegno filosofia politica all'Università di Venezia. Oggi presentiamo l'ultimo libro di Guido Mazzoni, che sapete essere un professore di letteratura, di teoria della letteratura all'Università di Siena, uno scrittore di poesia, uno scrittore di teoria letteraria, dicevo, teoria del romanzo sulla poesia moderna, quest'ultimo prodotto in inglese, vedo qui, da Harvard nel 2022, e presentiamo questo libro che ha delle caratteristiche molto peculiari. La prima cosa che mi viene da dire è che va ricollegato a un libro precedente pubblicato dallo stesso editore, La Terza, 10 anni fa. Il titolo di quel volume era I destini generali, si componeva di 2 saggi che affrontavano il tema della mutazione antropologica, tra virgolette, l'espressione pasoliniana. Quella mutazione antropologica veniva indagata in uno in particolare di quei saggi, l'altro era soprattutto dedicato, prendeva spunto dalla città di Berlino. Il lavoro che viene effettuato in questo libro è un lavoro di allargamento dello sguardo sia nel tempo sia nello spazio. Nel tempo perché si seguono eventi, figure seguite al 2015, ma anche all'indietro, soprattutto all'indietro, perché si comprende che la mutazione antropologica, di cui si individuavano una serie di tratti, l'individualismo, l'edonismo, il consumismo, la privatezza, l'immanenza, questi tratti vengono fatti risalire a sostanzialmente alla storia moderna come storia borghese, figlia della rivoluzione borghese, l'unica rivoluzione che secondo Mazzoni ha effettivamente vinto, per così dire. E poi c'è un altro tempo, il 1968, quindi l'89, 1789, 1968, come una rivoluzione ambigua, l'ultima delle grandi rivoluzioni sociali, una prospettiva anche comunista, ma anche il momento a partire dal quale l'idea stessa di rivoluzione diventa difficile da pensare. Questo libro evidenzia un talento prettamente teorico, sia in senso, io direi, sintetico, un libro che parla di un mucchio di cose, le frasi condensano sempre tanti argomenti, i riferimenti in nota sono molto arricchiti rispetto ai saggi, perché questo è un libro che si compone di 7 saggi, che erano tutti già stati pubblicati in una versione diversa, o in rivista, o erano interventi a convegni, festival, eccetera, eccetera. E quindi sono tutti saggi rivisti, soprattutto mi sembra, nell'apparato delle note. E sono dei saggi, dicevo, che evidenziano un talento teorico, soprattutto sintetico e descrittivo, cioè non si tenta qui di spiegare come il mondo dovrebbe andare, ma si tenta di spiegare innanzitutto, appunto, di non solo descrivere ma anche spiegare come il mondo va, eh? Quindi è un'analisi del presente, è un tentativo di una diagnosi sul presente. La prima domanda che ti faccio è innanzitutto: quando ti è venuto in mente di raccogliere questi 7 saggi, che si parla di cose, dicevo, diverse? C'è un capitolo, il primo, su 4 crisi politiche, un capitolo su Trump, un capitolo su Berlusconi, uno sulla pandemia, uno sulla classe media e uno sul 68, e poi c'è una introduzione che è a sua volta appunto la riscrittura di un saggio. Quando ti è venuto in mente di raccogliere questi saggi e in che modo pensi che la tua riflessione sul presente sia modificata rispetto a quella che avevi condotto 10 anni fa, poi approfondiamo. Grazie, ringrazio Giulio Arzolini per aver accettato di presentare questo libro, ringrazio la libreria Tomo per l'ospitalità e voi per essere qui presenti a questo incontro. Il libro nasce, diciamo, l'idea di scrivere dei saggi su quello che succedeva nella scena politica contemporanea nasce il giorno successivo alla prima vittoria di Donald Trump, perché lì è diventato chiaro che stavamo vivendo una fase storica differente, che era successo qualcosa di molto profondo, che prima si era solo annunciato, che in quel momento diventava effettuale. La vittoria di Trump raccoglieva in sé una serie di elementi che erano emersi negli anni precedenti e anche una serie di immagini, perché poi questo saggio, questa serie di saggi, questo libro nato riscrivendo, rimettendo insieme una serie di riflessioni che prima erano uscite sotto altra forma, questo libro è fatto anche di percezione, cioè di immagini. Una delle prime immagini a partire dalle quali questo libro si fissa è l'immagine degli impiegati della Lehman Brothers che la sera del 15 settembre 2008 fanno fagotto letteralmente, cioè prendono delle scatole di cartone, mettono nelle scatole di cartone i soprammobili che tenevano nei loro uffici e se ne vanno licenziati all'improvviso in tronco perché la Lehman Brothers è fallita da un giorno all'altro e il risultato è quello. Ora, a partire dalla crisi economica del 2007-2008, lo scenario politico di quello che con un'espressione di Vladimir Putin potremmo chiamare l'Occidente collettivo, la scena politica dell'Occidente collettivo è cambiata radicalmente e pochissimi se ne sono accorti prima che ciò accadesse, anche se i segnali retrospettivamente, ma questo succede spesso retrospettivamente, c'erano tutti e potevano essere facilmente colti. Quella crisi ha slatentizzato una serie di processi che poi hanno prodotto i populismi di destra con la loro clamorosa vittoria tra la Brexit e la prima elezione di Trump. Però se ci fosse stata solo la Brexit, questo fenomeno non sarebbe stato così dirompente come è diventato dopo la prima vittoria di Trump. Lì una costellazione ha cominciato a prendere forma. Trump, l'annunziatore dei populismi di destra esplosi a metà degli anni 10, che era Berlusconi, che abbiamo avuto sotto gli occhi senza capirne la funzione storica e in qualche modo la perversa grandezza, la sua funzione di individuo cosmico storico. L'abbiamo prima deriso, poi ci siamo mitridatizzati, l'abbiamo accettato, ma non abbiamo capito che Berlusconi annunziava un nuovo modo di fare politica che a partire da un certo momento sarebbe dilagato anche fuori dalle condizioni specifiche dell'Italia. Dunque Trump, Berlusconi, i fenomeni slatentizzati dalla crisi economica del 2007 del 2008, il Covid, che è stata la più grande crisi che le nostre società abbiano vissuto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, innanzitutto in termini numerici, è stata la più grande esperienza di morte di massa che si è fatto, che le nostre società hanno fatto dal 1945 in poi. Covid che ha mostrato subito degli aspetti politici sui quali valeva la pena riflettere e che è stata come esperienza sostanzialmente subito dimenticata, e anche questa è una cosa che mi ha molto colpito. Il Covid, come saprete, ha fatto, secondo le statistiche attuali, in Italia 197.000 morti, la Seconda Guerra Mondiale in 2 anni e mezzo, nella parabola più acuta della crisi, tra il marzo del, anzi in 2 anni, tra il marzo del 2020 e il momento in cui è stata dichiarata la fine dell'emergenza, che era il marzo 2022. Ha fatto 197.000 morti circa in Italia. La Seconda Guerra Mondiale in 5 anni, tra giugno del 40 per l'Italia e il 25 aprile del 45, ne fece 455.000. Quindi il Covid ha avuto un ordine di grandezza del tutto paragonabile ad una guerra ed è stato immediatamente dimenticato. Questa cosa è un oggetto di interesse e di riflessione per me. Dunque questi fenomeni generavano una costellazione. Cosa teneva insieme questa costellazione? Sono partito per costruire questa costellazione da una frase che ho trovato in un saggio di Calvino del 1961. Questo saggio era una riflessione sulla condizione politica italiana a 15 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E Calvino diceva: là fuori ci sono ancora delle guerre locali, e c'è la paura della guerra fredda, la paura legata alla guerra fredda. Però sostanzialmente all'interno delle nostre società noi viviamo come se fossimo al riparo. Viviamo coperti, difesi. Là fuori ci sono ancora alcuni spargimenti di sangue locali, ma i più li guardano come si guardano delle grandinate in un giorno di sole. Calvino era in anticipo sui tempi e parlava solo per una parte della società italiana nel 1961, cioè parlava per quella che di lì a poco negli Stati Uniti si sarebbe chiamata la maggioranza silenziosa, perché c'era un'altra parte della società italiana che invece viveva l'impegno politico con un'altra tensione, un altro trasporto, ed era molto spesso una parte politica impegnata a sinistra che cercava un riformismo forte, o più spesso era attratta dall'idea di una rivoluzione. Questa idea però di essere al riparo, che nel 1961, benché maggioritaria già allora, non era forse così egemone, sarebbe sicuramente diventata egemone dopo il 1989-91, cioè dopo la fine della Guerra Fredda, con il trionfo delle liberal democrazie e del capitalismo. Quella frase di Calvino, che nel 61 descriveva la visione della politica di una parte della società, a partire dagli anni 90 avrebbe descritto una condizione egemone e diffusa. Era la condizione che io ho incontrato quando ho cominciato attivamente a interessarmi di politica, quando avevo poco più di 20 anni, e il dibattito occidentale all'inizio degli anni 90 era dominato dall'idea messa in giro da un politologo americano di origine giapponese, Francis Fukuyama, un'idea che diventò subito uno slogan ed ebbe un'immediata forza di dibattito ovunque, non solo in sede intellettuale ma anche sui giornali, l'idea della fine della storia. Con l'idea della fine della storia era implicita l'idea del riparo. In Occidente non può più succedere nulla, anzi nel mondo non può più succedere nulla di sostanzialmente traumatico. È vero, ci sono piccoli o grandi spargimenti di sangue che noi non vedevamo o non volevamo vedere anche quando erano dall'altra parte dell'Adriatico, come le guerre nella ex Jugoslavia. L'Occidente non si scompose quando pezzi interi di Africa nel corso degli anni 90 andavano in pezzi, non si scompose quando 1 milione di persone nel 1994 morì in un mese in una sanguinosa guerra etnica in Ruanda. Tutto questo non era percepito, non era storia, accadeva ma non era storia. L'idea è che la liberal democrazia era il compimento della storia umana, tutte le società sarebbero diventate liberal democratiche e capitalistiche, tutte le società più o meno prima o poi si sarebbero pacificate. La percezione del riparo a quel punto era interna all'idea appunto della fine della storia, a cui si associava un'altra idea che venne fuori lo stesso anno in cui Francis Fukuyama pubblicò il suo libro, cioè l'idea della fine o dello sciopero degli eventi, un'idea messa in giro da Jean Baudrillard. L'idea appunto è che non vi saranno più eventi davvero, davvero laceranti, tutto quello che accadrà sarà ricondotto alla dimensione della cronaca o dello spettacolo. Questo quadro, nel corso degli anni 10 di questo secolo, e secondo me il primo punto di divisione molto importante è la crisi del 2007-2008, a partire dalla quale i fenomeni che poi esplodono negli anni 10, a cominciare dai populismi di destra, si mettono in moto, annunziati da fenomeni già presenti nelle società occidentali, ma limitate a realtà locali o non ancora esplose in tutta la sua forza, come appunto l'annunzio dei populismi di destra che noi vivevamo attraverso la figura di Silvio Berlusconi, ma che rimaneva circoscritto a un singolo paese nel corso degli anni 90 e all'inizio degli anni 0, ecco, tutto questo si sarebbe messo in moto e avrebbe lacerato clamorosamente l'idea del riparo. Oggi noi, cioè l'Occidente collettivo, si sente molto più fragile, esposto e privo di ripari di quanto non accadesse prima, per molte ragioni. La prima ovviamente sono le tensioni politiche da cui le nostre società sono attraversate, quelle che si chiamano guerre culturali, ma in generale il fatto che i populismi di destra sono diventati così minacciosi da mettere in discussione le strutture stesse delle democrazie liberali. Questa è una cosa che vediamo nella cronaca politica di oggi. Dunque, il trionfo delle democrazie liberali non è stato messo in discussione da sinistra, ma tragicamente viene messo in discussione da destra, e una parte della sinistra si trova a dover sostenere, difendere come ultimo portato dell'evoluzione politica la democrazia liberale, che invece tutta la tradizione marxista giustamente sottoponeva a un'aspra e motivata, e secondo me ancora adesso letteralmente vera, critica. Un altro fenomeno che ci ha tolto il riparo è, come evidente, la crisi economica che a partire dal 2007-2008 si è messa in moto, poi è parzialmente rientrata, ma ciò che quella crisi ha mostrato all'Occidente collettivo è che l'Occidente collettivo non ha più nel mondo quel potere e quella forza economica che aveva in passato. A metà degli anni 90, ben oltre il 50% del prodotto interno lordo mondiale a parità di potere d'acquisto era in mano ai paesi del G7, cioè le sei economie occidentali più larghe e il Giappone. Oggi i paesi del allora G7, che si riunisce sempre meno spesso come G7, producono poco meno di un terzo, diciamo il 30% della ricchezza mondiale a parità di potere d'acquisto. Si ha il senso che il pendolo del potere e della ricchezza mondiale si stia spostando altrove. Inoltre queste società sono diventate al loro interno sempre più diseguali, perché quelle strutture in senso lato socialdemocratiche o cristiano-sociali che prima della fine della guerra fredda avevano la loro solidità, col trionfo delle liberal democrazie capitalistiche si sono poco a poco sgretolate. Dunque le differenze sociali nel nostro mondo si vedono molto più chiaramente di quanto non si vedevano prima, anche perché le strutture di contenimento si sono poco a poco sgretolate. Dunque fronteggiamo una crisi economica, una crisi sociale, fronteggiamo una crisi demografica. I paesi occidentali o non crescono demograficamente, o se galleggiano, come succede negli Stati Uniti, galleggiano demograficamente perché aumentano le etnie non caucasiche. E questo è un problema, è l'attore di conflitti, di contraddizioni che i populismi di destra sfruttano. Un terzo elemento che si aggiunge alla nostra percezione della crisi è il timore crescente della crisi ecologica. Il Covid è stato interpretato anche giustamente come la prima avvisaglia di quelle crisi ecologiche, in senso lato, cui dovremmo in futuro sempre più spesso abituarci. La crisi ecologica è un argomento, un tema di discussione molto diffuso, anche se la sua presa politica è ancora adesso scarsa, non si vincono le elezioni parlando di crisi ecologica. Il quarto elemento di angoscia e di percezione che questo riparo sta finendo è legato al problema del controllo delle tecnologie. Oggi si parla molto del controllo dell'intelligenza artificiale, che ha un potenziale enorme, sia di sviluppo sia di distruzione. Chi ha visto Terminator 3 sa di cosa si sta parlando potenzialmente. E si vede che il nostro assetto politico non è in grado di fronteggiare questa sfida. I nostri assetti politici non sono all'altezza di questa sfida. Aggiungo anche un altro elemento di preoccupazione per quanto riguarda il controllo della tecnologia, che è legato alla energia atomica, in altri termini all'arma atomica. Una cosa che è riemersa con la guerra in Ucraina è l'idea, appunto, sepolta dopo la guerra fredda, che in realtà ci sono in giro svariati paesi che posseggono l'arma atomica, e questo è un enorme problema, perché se durante la guerra fredda a possedere l'arma atomica erano pochi stati congregati in alleanze politiche e teoricamente soggetti razionali, adesso una guerra tra India e Pakistan fa paura a tutti, perché le conseguenze di una guerra tra India e Pakistan sono imprevedibili e entrambe sono potenze atomiche, per dire. Così come ovviamente una guerra tra Russia e Ucraina fa paura, perché ogni volta che in una guerra convenzionale è coinvolta una potenza atomica, tutto può succedere in linea di principio. Dunque abbiamo perso il riparo. Questo è il punto di partenza del libro. Le nostre società sono lacerate da crisi profonde, stratificate, multiformi, e questo è il punto d'attacco, ecco, del libro. Una situazione diversa da quella dei destini generali, la differenza è l'esplosione di questa nuova fase storica. Grazie. Sì, senza riparo, appunto, che è il titolo del libro, effettivamente è la diagnosi che in qualche modo tiene insieme questi sette diversi saggi. Io leggendolo però questo libro, leggendolo fino in fondo, mi sono detto poi che lo stesso titolo poteva ricevere anche un secondo significato, perché il riparo che manca è sicuramente, diciamo, questa sensazione di sicurezza che Calvino individuava già nel 1961, che tu dici giustamente diventa egemonica col collasso dell'Unione Sovietica all'interno di questo che si chiama Occidente collettivo. Però l'altro riparo che manca, a tuo giudizio, quello che tu scrivi, stando a quello che tu scrivi, è il riparo dato dalle ideologie, in particolare dalla ideologia comunista, che riteneva possibile rivoluzionare il mondo capitalistico e sostituirlo con un nuovo modo sociale di produzione. Il finale di questo libro dice così: non abbiamo più alcuna speranza paragonabile a quella che animava l'età delle rivoluzioni. Nessuno pensa che un altro mondo sia possibile, nessuno ci crede veramente. Ora, a me sembra che uno dei motivi di interesse di questo libro sia anche il fatto che è percorso, per così dire, da una tensione, nel senso che da una parte mi sembra, si sostenga appunto, che noi viviamo, in particolare dopo la crisi che comincia nel 2007-2008, e in maggior ragione con le elezioni di Trump, una fase di fine della storia. Viviamo, cioè, un paragrafo che si intitola così, dopo la fine della storia, per i motivi che tu evidenziavi. Dall'altra parte però è come se vivessimo comunque una fine della storia, una storia che però è finita diversamente rispetto a come Fukuyama riteneva, nel senso che tu mi sembra di capire, sostieni l'economia di mercato capitalistica è un'economia che si è globalizzata sempre di più. La Cina è entrata nel WTO e fa la parte addirittura dello Stato che difende il mercato mondiale. Adesso con Trump, in particolare nella seconda presidenza, istituisce alleanze ancora più forti rispetto a quelli che erano stati introdotti in precedenza, in parte anche confermati da Biden. Quindi l'economia è necessariamente un'economia di tipo capitalistico, la società è una società dei consumi, la democrazia però tende a diventare anche in Occidente illiberale, questa è la tendenza che mi sembra tu individui. Quindi questo personaggio Fukuyama, io proprio grazie alla terza avevo studiato un po' quella vicenda, lui che scrive questo saggio, inizialmente c'è un punto di domanda, la storia è finita, punto di domanda, poi questo saggio diventa un libro, lo pagano un mucchio di soldi per scrivere quel libro, e lui che è sostanzialmente un conservatore, un neoconservatore più che un neoliberale, scrive questo libro che è La fine della storia, ma è La fine della storia e L'ultimo uomo. L'ultimo uomo è questa immagine nicciana, Zarathustra, eccetera, quindi questa figura così alienata nei consumi, incapace di combattere, che non ha voglia di combattere. E questo è, dal punto di vista di Fukuyama conservatore, un motivo di preoccupazione per il destino dell'Occidente. E quindi no, ti vorrei chiedere di riflettere un po' se è vero che questa idea di senza riparo può essere intesa in due modi, appunto, perché l'altro riparo che manca, lo accennavi soltanto appunto nel tuo primo intervento, è il riparo a cui credeva una buona fetta della popolazione, ed era il riparo appunto offerto, diciamo, da un principio speranza essenzialmente, in un ordine mondiale diverso. Sì. Dunque, in questo caso possiamo far slittare la metafora attraverso una citazione di Siegfried Krakauer, saggista, scrittore, una delle figure più interessanti della cultura dell'età di Weimar, quale nel 1930 pubblica un saggio interessantissimo, una sorta di inchiesta sociologica intitolata Gli impiegati. Ed è un saggio nel quale si studia involontariamente quella che sarebbe poi diventata la base sociale del nazismo di lì a 3 anni. Una cosa che Krakauer dice è gli impiegati rispetto agli operai sono in realtà politicamente più angosciati e imprevedibili, perché mentre la classe operaia ha un tetto ideologico, gli impiegati sono dei senza tetto ideologici, cioè sopra la testa della classe operaia c'è una grande narrazione politica fatta di interpretazione e di speranze, la narrazione marxista, comunista, socialista, che dà un senso al loro operare e una prospettiva di rivoluzionaria o riformista forte al loro agire. Sopra gli impiegati non c'è niente. Gli impiegati sono dei senza tetto spirituali, dice Krakauer. Proprio per questo gli impiegati possono andare in una direzione o in un'altra molto rapidamente. Possono andare verso verso l'anomia sociale, l'atomismo, la solitudine, ma possono anche essere preda di una nuova, inaspettata ideologia. Ed è quello che è successo. Di lì a pochi mesi dalla pubblicazione di quel saggio. È vero che noi siamo diventati tutti dei senza tetto ideologici, basta vedere la mobilità elettorale, che è un fenomeno assolutamente nuovo se comparato a quello che succedeva prima del 1900, tra il 1900, quello che succedeva normalmente tra il 1945 e il 1991 in Italia, cioè i flussi elettorali si spostavano di pochissimo di elezione in elezione. Quello cui invece assistiamo nelle elezioni degli ultimi decenni è una straordinaria e nuova mobilità elettorale. Questo perché? Perché i tetti ideologici, le appartenenze forti, sono venute meno. La società Bauman ha trovato metafore esplicative che funzionano molto bene, si è fatta fluida da ogni punto di vista, la metafora del flusso è entrata nell'uso comune, sono fluidi gli individui, sono fluide le appartenenze, sono fluide le aggregazioni, i partiti cambiano nome, cambiano identità molto rapidamente. Questa è una condizione nuova. L'altra cosa che tu dicevi che è molto importante è che negli anni 90, al di là della lettera di Fukuyama, è vero che il libro di Fukuyama è stato interpretato per come Fukuyama forse non avrebbe voluto che venisse interpretato, ma questo è filologia fukuyamiana che lasceremo da parte. Quello che ci interessa è che quel libro venne interpretato unilateralmente anche perché sembrava andare nella direzione di qualcosa che veniva espresso da quelli che Gramsci chiama quella che Gramsci chiamava la filosofia dei non filosofi, cioè le espressioni ideologiche di coloro che di mestiere non sono filosofi ma trovano delle formule che funzionano molto bene per spiegare il presente. Due delle formule che dicevano la stessa cosa, che muovevano da due angolature politiche opposte, che descrivevano molto bene lo spirito, il senso comune che si crea poco prima della fine della Guerra Fredda e a maggior ragione dopo la fine della Guerra Fredda e dopo la vittoria del democrazie liberali e trazione capitalistica, queste due formule sono una di sinistra, che i meno giovani ricorderanno perché era al centro di molte discussioni degli anni 90, il pensiero unico. Le nostre società sono entrate in un'epoca in cui, finite le contrapposizioni ideologiche, c'è una sola ideologia, che è quella capitalistico-liberale. Questo è il pensiero unico. L'idea del pensiero unico muoveva da una prospettiva marxista, dobbiamo contrastarlo. Questa era l'idea. Questa idea era uguale e contraria, diceva la stessa cosa da un punto di vista opposto rispetto ad una formula, uno slogan, che rapidamente divenne leggendario nel corso degli anni Ottanta. E questo slogan lo conoscete tutte e tutti, dice "There is no alternative". Questo slogan emerse in una intervista del 1980 di Margaret Thatcher, poi venne ripetuto più volte da Margaret Thatcher nel corso degli anni Ottanta, fino a diventare una sorta di bandiera ideologica. Non c'è alternativa. Il mondo sarà capitalistico-liberale, tutto il resto non funziona. Il comunismo non funziona, la socialdemocrazia non terrà perché l'economia si globalizza, non ce la farete a contrastare il movimento di merci e capitali, quello che potete fare è cercare di trarne profitto accettando questo sistema. Ecco, tutto questo configurava un mondo nel quale non c'era alternativa, e l'idea che non ci fosse alternativa è o esplicitamente o implicitamente penetrata nel discorso occidentale degli anni 90 e degli anni 0. È stata accettata come orizzonte, è stata accettata come orizzonte anche dei partiti che muovevano, avevano ancora le insegne o la radiazione di fondo della sinistra, a partire da Tony Blair in Gran Bretagna, che non a caso Margaret Thatcher considerava la sua più grande vittoria. Il fatto che i laburisti abbiano accettato il nostro piano del discorso è per noi la nostra più grande vittoria. La stessa cosa succedeva con la Costituzione dell'Unione Europea su base ordoliberale. Quando l'Unione Europea si costituisce attraverso i suoi trattati successivi su una base economico-sociale di tipo ordoliberale e i partiti di centro-sinistra la accettano e la difendono perché diventano i primi partiti del rigore, quella è la vittoria suprema della democrazia liberale a trazione capitalistica. La tua controparte, il tuo avversario socialdemocratico parla il tuo stesso linguaggio, dunque non è più veramente socialdemocratico. Quello che sta facendo è barcamenarsi, è salvare il salvabile, ma le regole le dettiamo noi, il pallone lo portiamo noi, ed era quello che accadeva. Qual è il grande evento traumatico degli anni 10? È che è cominciata a emergere nell'Occidente collettivo una forma di alternativa alla democrazia liberale, che però non è un'alternativa di sinistra, è un'alternativa che sta a destra della democrazia liberale. È un'alternativa fondata, per esempio, su un'idea, come è stato detto, illiberale della democrazia, cioè una democrazia ridotta al suo elemento minimo brutale: chi vince le elezioni deve governare, senza rispetto del fondamento costituzionale del regime, senza rispetto o senza troppo rispetto degli equilibri dei poteri, senza rispetto del potere giudiziario, senza rispetto dei pesi e contrappesi. Questa idea illiberale della democrazia è diffusa nel discorso populista di destra. Nel Trump 1 la si è sentita dire, non la si è vista agire troppo, se non nell'episodio clamoroso del 6 gennaio 2021. Il Trump 2 invece questo discorso lo tiene con molta più decisione, e per la prima volta in un paese occidentale sembra possibile una deriva ungherese. Questo è forse il fatto nuovo del Trump 2, che lentamente stiamo osservando dei segni, neanche tanto lentamente perché sono passati pochi mesi, diciamo, con una certa celerità stiamo osservando dei segni di deriva ungherese, e questo è molto inquietante. Dunque si dà un'alternativa, ma non è un'alternativa di sinistra. Altra cosa, Trump 2, con il discorso dei dazi portato alle estreme conseguenze, anche se pare che adesso, eccetera, vedremo, però Trump per la prima volta in modo organizzato è andato contro un dogma del regime, del there is no alternative, che si era instaurato tra anni 80 e anni 90, cioè la libera circolazione delle merci. Questo dogma è stato messo in discussione da un ultracapitalista di destra, ma è stato messo in discussione. Ovviamente la sinistra non può tenere questo discorso, ma la sinistra ha mancato completamente di riflettere su questo, cosa elementare che molti possono vedere e constatare. Se tu permetti ai capitali e alle merci di circolare liberamente nello spazio mondo, se rendi la politica più ristretta e debole dell'economia, come puoi pretendere di instaurare una forma di socialdemocrazia, mettiamo, che presuppone una forma di controllo dell'economia da parte della politica? Trump sta provando a controllare l'economia con la politica, naturalmente non per instaurare la socialdemocrazia, ma per instaurare un ultracapitalismo nazionalista. Ha anche il potere di farlo, essendo il Presidente degli Stati Uniti, cioè avendo un potere effettivo, reale. Questo però ci mette davanti allo shock di vedere che la fine del there is no alternative, perlomeno l'incrinatura, non la fine, l'incrinatura del there is no alternative è venuta da destra e non da sinistra, e la sinistra si trova a difendere la democrazia liberale. Ora, io continuo a sentirmi un po' siderato quando la sinistra difende la democrazia liberale. No, perché non sia giusto farlo, se l'avversario è Trump lo devi fare, non è che non lo puoi fare, lo devi fare. Però la democrazia liberale non è un bene in sé, cioè è uno stadio dal punto di vista marxista, è lo stadio di un'evoluzione storica che andrebbe oltrepassato per fare in modo che quell'uguaglianza formale diventi un'uguaglianza sociale sostanziale. Non ci teniamo la democrazia liberale. La sinistra, poi la parte che si chiama sinistra, la parte che si identifica come sinistra oggi, persegue un altro tipo di emancipazione, anche questo è molto interessante. Le nostre società occidentali sono lacerate da guerre culturali molto profonde, come sappiamo, e queste guerre sono instaurate dalla tensione che la parte che si identifica come sinistra immette, perché giustamente persegue l'ultima forma di emancipazione che la sinistra, smetto di mettere virgolette, ma c'è sempre virgolette, che la sinistra riconosce, cioè l'emancipazione individualistica liberale. Che è un'emancipazione a tutti gli effetti, io sono favorevole a questa emancipazione, lo voglio dire subito a ciò che sia chiaro, è l'emancipazione che perseguono i movimenti, la galassia femminista, giustamente, è l'emancipazione che perseguono tutti quei movimenti che non si riconoscono nell'eteronormatività, ed è il compimento dell'idea liberale per cui ogni individuo ha il diritto di essere come vuole, e questa è un'emancipazione. Ciò che succede è che a questa emancipazione che viene perseguita non corrisponde un'attenzione sostanziale, che non sia un'attenzione a parole che riesce a tutti, un progetto politico, un progetto di ingegneria politica che prenda in conto il problema della diseguaglianza sociale, quella che nasce dai rapporti di classe, quella che nasce in termini ancora più marxisti dai rapporti di produzione, cioè dal fatto che qualcuno è proprietario dei mezzi di produzione e qualcuno vende il lavoro per vivere. Questa cosa è completamente scomparsa dal discorso politico della sinistra, ragion per cui le classi popolari, non avendo un tetto ideologico che dia loro, dia un senso, orienti la loro frustrazione in un senso, sono facili prede del discorso populista di destra. Poi diciamo anche perché vanno a destra e non vanno a sinistra, oltre che perché la sinistra non spiega più, non dà più una risposta alla ingiustizia sociale, è una risposta credibile, non una risposta a parole. Cioè, tu puoi dire, sì, facciamo il referendum, adesso aboliamo, giusto, vabbè, siamo d'accordo. Però poi quando vai al governo, per forza di cose, tieni una politica che ripristinerà quelle stesse cose che quando eri all'opposizione hai combattuto. Perché questa è la storia, la parabola degli ultimi decenni. No? Questa cosa è ciclica, è ricorrente. Beh, insomma, il discorso naturalmente è molto complesso perché si tratta di affrontare grandi questioni, il cosmopolitismo dell'economia e il nazionalismo della politica, il cosmopolitismo fisiologico dell'economia capitalistica che da sempre, no, già Marx l'aveva capito perfettamente, tende a diventare planetaria, e la politica che invece è fatta di rapporti interpersonali necessariamente è legata a un qualche territorio. Organizzare questa asimmetria è molto complicato, lo è per la destra, lo è per la sinistra naturalmente. E è molto interessante questa descrizione che del resto, diciamo, in parte si sta imponendo, il fatto cioè che le due ideologie che di fatto si contendono il consenso politico, al netto il fatto che naturalmente c'è un sacco di gente che della politica si disinteressa perché non ha i mezzi, non ha la voglia, oppure ha troppi mezzi e ha altre voglie che non quella di stare appresso al dibattito politico, ma insomma il dibattito politico è come dire, fagocitato da una dialettica tra due destre fondamentalmente, una adesso conservatrice, post-fascista, afascista, fascista, forse direttamente, dipende dai casi naturalmente, e una che si chiama liberale, neoliberale, con la sinistra che è in grande difficoltà, perché la cultura, che prima si diceva marxista, e che in Italia ha avuto delle, naturalmente tu citavi Gramsci, ha avuto il tentativo esattamente di farsi carico delle classi medie. Quindi Gramsci, Togliatti avevano benissimo chiaro qual era la differenza tra l'impiegato e l'operaio, anche per la storia italiana naturalmente, per la storia dell'industria italiana e così via, per la diversificazione del paese, la questione meridiana e tante altre cose. Quindi diciamo il marxismo italiano, che era un marxismo storicista, che era un marxista, no, che aveva cercato di portare a coerenza il liberalismo, che aveva cercato di ereditare e di superare il liberalismo nei suoi punti più avanzati, e cercava in qualche modo di contrastare il conservatorismo innanzitutto, portando a sé il liberalismo. Quindi molto interessante il fatto che tu colleghi il liberalismo e il conservatorismo anche a dei gruppi sociali. In questo libro c'è tutto un capitolo dedicato al tema della classe media. E l'ultimo paragrafo di questo capitolo è intitolato La classe media estesa. Riporti varie diagnosi sulla estensione della classe media e dei suoi valori a cui accennavo all'inizio, e l'estensione di questa classe media diventa la base su cui in qualche modo i populismi di destra anche ancorano il loro consenso. Perché il punto interessante di questo libro è che i populismi non sono presentati semplicemente, come spesso accade, come reazione a una condizione di disuguaglianza sociale. Certo, sono criticati come ovviamente un elemento problematico per tante ragioni, però tu indaghi le ragioni culturali profonde per le quali queste opzioni politiche dal tuo punto di vista sono più in linea con lo spirito del tempo. Qui vorrei, come dire, affondare la domanda sulle origini, sulla tua lettura del moderno, in buona sostanza, perché la tua lettura del moderno porta a dire che, lo accennavo all'inizio, è la rivoluzione borghese, la modernità è essenzialmente un'epoca borghese, intendendo per borghese non l'alta borghesia, quella che coniuga la cultura, la responsabilità sociale alla proprietà, l'idea di classe dirigente, appunto, un'idea borghese che il movimento operaio, per esempio, mediato dal Partito Comunista in Italia, rivendicava, che diceva: noi saremo una classe dirigente migliore di quella liberale. Quindi non è che noi rinunciamo all'idea di dirigere le masse, questo elemento pedagogico era interno alla cultura comunista italiana, del comunismo italiano. Invece questa cosa non c'è più, perché dal tuo punto di vista la grande rivoluzione che ha vinto è quella borghese, intendendo proprio per borghese la piccola borghesia, che è innanzitutto interessata alla preservazione, tu dici qui, riutilizzi in modo, per certi versi, storicistico, cioè storicizzandolo, un concetto che invece appartiene a un orizzonte diverso, quello della biopolitica, il concetto di nuda vita, e sostieni che la classe media estesa sia primariamente interessata alla sensazione esattamente del riparo. Quindi è come se tu riformulassi anche quell'idea di fine della storia di Fukuyama, mettendo molto più l'accento sulla, non solo sull'economia capitalistica di mercato, ma essenzialmente su questa dimensione privata che interessa ai singoli individui. Quindi vorrei chiederti appunto di ragionare un po', parlando essenzialmente di questo quinto capitolo, su perché i populismi di destra che oggi si contendono lo scenario politico, eliminando, mettendo da parte la sinistra, perché dal tuo punto di vista, se capisco bene, sono più in sintonia non solo con lo spirito di questi anni, ma diciamo con lo spirito della modernità, per certi versi. Dunque, due piani del discorso, uno di breve durata e uno di lunga durata. Comincerei da quello di breve durata. Quello che è una cosa che non abbiamo detto, che abbiamo dato per scontato, perché ampiamente condivisa, è che le classi popolari e una parte delle classi medie occidentali sono oggi tra gli sconfitti della globalizzazione. Vedono le loro, credono di vedere le loro condizioni di vita peggiorare, ed è questa una delle ragioni del loro rabbia, rancore, risentimento che i populismi di destra incanalano nella propria direzione politica. Negli ultimi anni si vede anche che si è come creata una lacerazione interna alle classi medie, una divisione fra una classe media sconfitta dalla globalizzazione, di solito radicata, locale, terrestre, nel senso di radicata in un luogo, spesso provinciale, spesso localistica, e una classe media, in senso metaforico, marina, mobile, cosmopolita, aperta, liberal, che nella globalizzazione sta bene. Di solito la prima classe media vota a destra, la seconda classe media, il ceto medio riflessivo di Paul Ginsburg, vota, è il bacino elettorale dei partiti di sinistra moderata oggi. Si è creata questa divisione che corrisponde anche a chi è contento di fatto della globalizzazione, ci sta bene perché questo permette lo scambio, il viaggiare, permette anche l'emancipazione liberale, quella trasformazione di costumi e di rapporti di potere che è implicita ed esplicita nell'emancipazione liberale, e chi invece l'emancipazione liberale la vive come una minaccia che si aggiunge all'altra minaccia della globalizzazione in generale, di cui sono volti sia gli sconvolgimenti che le classi popolari subiscono a causa dell'economia globale, sia per esempio l'arrivo dei migranti visti come quel portato del mondialismo che ci minaccia da vicino, ci virgolette ruba il lavoro, viene a vivere accanto a noi, ci porta quell'alterità che non desideriamo, che non vogliamo vedere e che percepiamo come minacciosa, eccetera. Quindi si è creata questa scissione fra due classi medie, diciamo, o classe popolare, la lower middle class, e una middle class globale che nella globalizzazione ci sta bene, di fatto. Questo è un fenomeno nuovo che si vede in tutte le analisi del voto e che è anche molto interessante da studiare e anche molto stratificato. C'è una componente di genere, per esempio, molto visibile nelle ultime elezioni. Questo perché le donne hanno maggioranza da guadagnare dall'emancipazione liberale. Il femminismo è sempre il compimento supremo dell'emancipazione liberale, in questo senso. Cioè, momento in cui davvero, se dobbiamo essere tutti giuridicamente uguali, che si sia giuridicamente uguali. Aboliamo quelle strutture patriarcali che impediscono l'uguaglianza sostanziale tra gli individui. Se si guardano le analisi del voto, si vede che negli Stati Uniti la distinzione repubblicana e democratici è connotata a una forte impronta di genere. Se si guardano le analisi del voto, si vede che la stragrande maggioranza degli uomini con basso titolo di studio ha votato Trump, la stragrande maggioranza delle donne con laurea o dottorato ha votato democratico. Questi sono i due gruppi sociali più polarizzati politicamente. Questo per quanto riguarda la breve durata. Per quanto riguarda la lunga durata, a me pare evidente che se c'è una rivoluzione, facendo il discorso necessariamente breve, dunque tagliato con la scure, senza le dovute sfumature e zone intermedie, ma i tre grandi progetti rivoluzionari in campo nell'epoca della piena modernità dispiegata erano in ordine di apparizione sulla scena storica. Il progetto di rivoluzione borghese, quello che porta alla fine dell'Ancien Régime e all'instaurazione del liberalismo, alla consacrazione del lavoro. Questa secondo me è una dei grandi portati della rivoluzione borghese. La borghesia, come dice Norbert Elias, è stata la prima classe dirigente che ha lavorato, cioè che ha lavorato nel senso proprio, che ha consacrato il lavoro, cioè che ha instaurato un potere non fondato sulla spada o sul libro, sacro o profano, ma sul lavoro. E questa è una rivoluzione che non ha precedenti nella storia. È anche classe che ha consacrato giuridicamente la persona privata comune, dotandola di diritti e ponendola in un rapporto di uguaglianza giuridica, non sociale, con i suoi simili, mettendo in moto quel processo che poi è quello dell'evoluzione dell'emancipazione liberale, che deve ancora compiersi, perché ancora gli individui non sono giuridicamente uguali. Questo è il primo progetto. Il secondo progetto in ordine di apparizione è il progetto della rivoluzione comunista socialista a base marxista, anarco-sindacalista, eccetera. Quell'area politica. Quell'area politica che ha ottenuto straordinari risultati in termini di rivendicazione, di conquiste ottenute, stando magari all'opposizione nei paesi occidentali, quando ha preso il potere, ed è successo nella forma del socialismo reale, innanzitutto è stato un fenomeno vero, cioè che ha attraversato il Novecento e ad un certo momento ha governato metà dell'umanità. Metà dell'umanità nel corso degli anni 70 era governata da regimi comunisti, socialisti, quell'area. Questo progetto è, come progetto di governo, di instaurazione del modello sociale alternativo, fallito. La rivoluzione che è stata sconfitta. Con un'eccezione di cui adesso magari parleremo, molto interessante da osservare. Il terzo progetto, in termini di apparizione storica, è quel progetto di reazione conservatrice che si instaura nel momento in cui la rivoluzione borghese diventa effettivamente egemone e produce a destra, in un'area che va da un conservatorismo aristocratico alto borghese al nazismo, al fascismo nazismo, produce quella che è stata chiamata rivoluzione conservatrice, estendendo un termine sorto all'interno della cultura di Weimar e dandogli un significato più ampio. Anche la rivoluzione conservatrice come sistema di governo ha perso, cioè i fascismi storici ferrei dell'entre deux guerres sono stati sconfitti. I regimi di destra a cui sviluppo assistiamo oggi sono, a mio modo di vedere, un'altra cosa. Non vuol dire che siano meno inquietanti, sono inquietanti, ma non vedremo attraverso quei regimi, non vedremo lo stato etico, non vedremo il sabato fascista, non vedremo i bambini in divisa, non vedremo i capi con le uniformi militari. Non è quella la direzione di sviluppo. La direzione di sviluppo è piuttosto una forma di individualismo anarcoide di destra con culto del capo autoritario e desiderio non di esercito ma di polizia, di una sorta di metaforica gated community statale, con all'interno magari una forma di apartheid che distingue quello che Marine Le Pen chiama il popolo centrale, cioè quelli normali, virgolette, una celebre intervista di Marine Le Pen che distingueva all'interno della popolazione francese il popolo centrale, cioè i normali, bianchi, eccetera, e una zona indefinita che tanto popolo centrale non è. Ecco, questo discorso che sfiora l'apartheid è in modo più o meno implicito, a volte viene pronunciata, cioè gli scappa la mano, come il dottor Stranamore, ma di solito rimane un discorso criptico ma serpeggiante, è uno dei modelli cui il populismo di destra si ispira, un po' come il mito della Svizzera che aveva la Lega qualche anno fa. Cos'era la Svizzera se non una grande gated community di gente ricca che si proteggeva dal mondo esterno? Questo però non è il fascismo storico, non è il nazismo storico, non è quella la direzione di sviluppo. È piuttosto sudafricana, nel senso del vecchio Sudafrica razzista. Ecco. Però, tornando al punto principale, la rivoluzione borghese, tra queste tre ipotesi, è quella che ha instaurato un'egemonia ed un modello di regime di ingegneria sociale che ancora oggi è il nostro. Noi siamo una società di individui, siamo una società che accetta che la società civile sia organizzata in senso capitalistico, siamo una società che persegue l'emancipazione individuale ed ha molta difficoltà ad indicare forme di aggregazione collettiva. siamo una società in cui la costruzione di un noi è sempre più difficile, proprio perché siamo una società che sviluppa l'individuo con tutte le conseguenze del caso, a cominciare appunto da una intrinseca e inarrestabile crisi delle aggregazioni politiche. In questo senso la borghesia ha vinto, non è la borghesia ha vinto a tal punto che ha distrutto, che mantenendo questo elemento di individualismo, ha distrutto la figura storica del borghese così come si dava fino a qualche decennio fa. Cioè la sua componente individualistica ha distrutto una certa idea tradizionale del borghese che oggi non c'è più, e qui possiamo riprendere l'analisi di Pasolini e delle trasformazioni della classe media all'interno del Novecento. Però appunto l'idea che questo pullulare di individui in una grande middle class estesa dai contorni sfumati, dall'habitus mescolato, sia il cuore delle nostre società, mi pare innegabile. Qui, peraltro, in prima fila abbiamo Francesco Pecoraro che ha inventato, che ha inventato la metafora del grande ripieno. Ecco, il grande ripieno è questa classe, questa società di individui pullulanti, un po' anarcoidi, disgregati, che costituisce di fatto credono di essere individui, ma non lo sono. La differenza è questa, cioè l'individualismo, ecco, no. Cominciato il dibattito, no ma sono d'accordo, io non credo che esistano più individui, perché c'è un tale sistema. Il problema è se esiste ancora questo individuo nato dalla rivoluzione francese e che si è portato avanti per due secoli, oppure se invece sia soltanto un'idea sulla quale noi basiamo l'idea di democrazia, cioè che ci siano individui coscienti che hanno piena contezza della loro volontà, delle loro, di come è fatta la società, eccetera, eccetera, e votano secondo l'interesse, secondo la coscienza. E tutto questo, diciamo, questo è un raccontino, non è così. Cioè, quello che vince è lo spirito gregario, ci sono i sistemi di comunicazione di massa che sono impadroniti nelle nostre menti, la rete si è impadronita nelle nostre menti, quindi il individualismo non c'è più. Il punto, secondo me, è questo. Cioè, questo è il punto, non so dov'è. Però, rispetto a questo problema qua, non possiamo più parlare di permanenza della rivoluzione liberale basata sull'individualismo. Bisogna parlare soltanto della parte che riguarda la prevalenza del capitalismo, su anche l'individualismo. Questo è quello che penso io. No, io sono d'accordo, come si diceva prima, nel senso che il trionfo di questo elemento individualistico in senso di pullulare di singolarità è andato così avanti che ha distrutto la figura tradizionale dell'individuo borghese, cosciente, cittadino, informato, posato, riflessivo, eccetera. Sono d'accordo su questo, quella figura non c'è più, è un pullulare di monadi in un'aggregazione di massa che ha la forma dello sciame, del gregge, troviamo una metafora per indicarlo. Però al fondo c'è l'idea che ci sei solo tu, c'è una X che è l'attrice di bisogni e di interessi, ogni forma di solidarietà è sospetta o fallace, non ci si crede, e se c'è è momentanea, e si va avanti nel flusso. Questo però appunto al fondo ha la grammatica è instaurata nel momento in cui la rivoluzione borghese libera questa forza di espressione individuale. Vogliamo magari dare la parola al pubblico, se ci sono osservazioni, interventi, qualunque cosa vogliate dire. C'è stato un... non so se... Ce lo andiamo, vai. Possiamo andare anche avanti, appunto, come dicevo, questo libro, come vedete, è pieno di argomenti che si intrecciano. Questo l'individualismo naturalmente è uno che, però, diciamo, il paradosso naturalmente è che gli individui si aggregano appunto in masse, quindi la società di masse è fatta da individui, gli individui però a loro volta compongono masse. Certo, dipende anche da chi li dirige. Certo, di comunicazione, certo. Che secondo me è quello che sta succedendo adesso. Quindi ci sono tanti elementi che bisogna prendere in considerazione. Uno dei punti che non abbiamo toccato, che secondo me però è interessante riportare in questa discussione, ha a che fare anche questo con una questione che si dice fa tremare i polsi, cioè la crisi del progetto illuminista. Illuminismo che cosa vuol dire? Vuol dire universalismo, vuol dire razionalismo, vuol dire progressismo. La cultura di sinistra è una cultura che, una cultura della sinistra moderna, marxista, e non solo marxista, ha cercato di dialettizzare, di rendere coerente, di esprimere le contraddizioni in cui cadeva l'ideologia liberale, appunto. Nel momento in cui cercare di affermare i diritti, ma i diritti per tutti, in che modo, in quale forma, eccetera, eccetera. Tu sostieni in questo testo che una delle crisi che dobbiamo fronteggiare oggi, e che è una crisi che si ripercuote anche su coloro che provano, tu dici, riferendolo a te stesso, tu dici di provare una irrazionale simpatia nei confronti di coloro che si oppongono allo spirito del tempo, per come è stato descritto finora. Bene, a che cosa, su cosa deve poggiare chi prova una naturale o formata attraverso la cultura, naturalmente, avversione o un fastidio, un disagio, un senso di, appunto, disagio rispetto a quello che accade? A cosa deve poggiare se l'illuminismo sembra ormai tradito, no? La sinistra contro i lumi. Quindi la sinistra su cosa poggia oggi, no? Questo è un altro tema da sviluppare, probabilmente, che c'è nel tuo libro. Dunque, questa è una domanda a cui è molto molto difficile rispondere. Volevo prima di rispondere a questa domanda, volevo introdurre un tema che avremmo forse che avrei dovuto introdurre all'inizio, ma che a questo punto è necessario perché io dia una risposta alla tua domanda. Cioè, io non ho alcun titolo per scrivere un libro, non avevo alcun titolo per scrivere un libro come questo. Se questo libro esiste, lo debbo alla benevolenza della casa editrice La Terza, che ha voluto, che ha dato fiducia a questi saggi, alla possibilità di farne un libro, a Anna Gianluca in modo particolare, però io non ho alcun titolo per scrivere un libro così. D'altra parte riflettevo su questo, quando parliamo di politica ci confrontiamo nel modo più acuto, serio e inevitabile con quello che Georg Simmel negli anni 10 del Novecento chiamava la tragedia della cultura. Che cos'è la tragedia della cultura? La tragedia della cultura è questo fenomeno di cui tutti facciamo esperienza. Il mondo diventa sempre più complesso perché la divisione del lavoro aumenta, la divisione del lavoro intellettuale aumenta con velocità esponenziale, le specializzazioni si ramificano. Per il semplice fatto che gli individui diventano di più. Quando io sono nato i viventi erano 3 miliardi e mezzo, adesso sono 8 miliardi. Questo vuol dire che io personalmente mi sono svalutato circa del 60% di quanto, no? Perché è una questione statistica, cioè la mia rappresentatività di individuo in rapporto all'umanità si è svalutata. Questo vuol dire anche che ci sono 4 miliardi e mezzo in più di viventi potenzialmente parlanti. La nuova struttura della sfera pubblica, quella che si è istituita da quando esistono gli smartphone, straordinaria rivoluzione politica, di cui fatico a vedere gli aspetti positivi, ma questo è un altro discorso, quindi non apriamo perché ci vorrebbe veramente un altro libro, come minimo. Insomma, il mondo, la complessità del mondo, la quantità di discorsi, la quantità di specializzazione, la quantità di sapere aumenta esponenzialmente. La nostra individuale capacità di conoscere e rielaborare è finita, perché i limiti della nostra vita sono quelli, i limiti delle nostre capacità cognitive sono quelli, il tempo a nostra disposizione è quello. Dunque, quando soprattutto quando dobbiamo parlare di politica, che è il luogo del comune, del punto comune a tutti noi, quando dobbiamo parlare di politica, e dobbiamo farlo, perché la politica ce lo chiede sia in termini di analisi, ce lo chiede sia in termini di azione, quando andiamo a votare, no? Quando dobbiamo parlare di politica ci confrontiamo con la nostra ignoranza, con la nostra insufficienza, col fatto che per avere un'opinione sensata sulla politica bisognerebbe essere esperti di teoria politica, politica interna, politica estera, politica economica, arte di governo, burocrazia, eccetera. Nessuno può controllare questi campi in termini minimamente specialistici, tutti questi campi, si fatica a controllarne uno. Mi dicevo, io non ho alcun titolo per scrivere saggi come questi, ma in fondo questo titolo non ce l'ha nessuno. E questo di parlare di politica però è un gesto necessario, avrebbe voglia di dire, è uno sporco lavoro e qualcuno dovrà pur farlo, è qualcosa che comunque facciamo, dunque proviamo a farlo. A questo punto si arriva alla tua domanda, che coinvolge la capacità da parte di qualcuno di dare una risposta a che fare, alla domanda a che fare. Ora, questo libro è scritto senza avere la minima idea di cosa si possa fare, cioè non è scritto da un osservatore, non è scritto da chi si mette nella prospettiva del partecipante. Ho il massimo rispetto di coloro che fanno ancora la fatica di partecipare alla politica cercando di salvare alcune cose che io vorrei salvare, a cominciare da una parvenza di Stato sociale funzionante, di socialdemocrazia funzionante. Come fare, per esempio, se domani un partito di sinistra dovesse prendere il potere in uno Stato occidentale, come fare a mantenere allo stesso tempo un posizionamento in un'economia globale che non ammette confini e difendere statualmente delle conquiste socialdemocratiche, come fare? Io non lo so e non avrei la minima risposta a questa domanda. Dunque non sono nella prospettiva del partecipante, non ci voglio nemmeno essere, non saprei come fare. Non saprei veramente come fare. Ho il massimo rispetto per chi ci prova e per chi si barcamena. Fatico ad indicare una direzione alla via. Aggiungo anche questo però. Di solito le vie d'uscita non vengono, le vie d'uscita veramente radicali, non vengono indicate da persone che appartengono alla generazione a cui mi trovo ad appartenere io adesso. Cioè, di solito i progetti di trasformazione iniziano a prendere forma in gruppi di persone più giovani di come sono io, che hanno con il tempo, con i movimenti del tempo presente, un rapporto forse più sorgivo di quello che posso avere io. E questa cosa la sento, cioè è chiaro che nella mia analisi e nella mia reazione politica agiscono degli schemi di pensiero e di azione che si sono fissati in epoche diverse rispetto a questo. Chi ha 20 anni, 30 anni non ha potere spesso, eccetera, però ha percezione forse di quelle forze alternative, sorgive, se ci sono, che io magari non riesco a vedere. Questa è una minima speranza che posso dare, però appunto la mia prospettiva non è quella dell'attore, di colui che deve agire, è la prospettiva di osservazione. In generale penso che le forze in campo oggi siano forze che si barcamenano a destra e a sinistra. C'è questo concetto di Carl Schmitt, che è più volte discusso nella teoria politica contemporanea, che è il catecon. Catecon è un concetto teologico che compare in San Paolo ed è la forza che rallenta l'avvento dell'anticristo. Ora, io ho l'impressione che i soggetti politici attivi campo occidentale contemporaneo stiano mettendo in atto, ciascuno dal suo punto di vista, tre forme diverse di catecon. È un catecon quello delle forze socialdemocratiche, cui io vorrei, realisticamente, in cui mi collocherei in uno scenario occidentale, cioè cercare di salvare lo Stato, quello che rimane dello Stato sociale, però in un contesto che, per come è fatto, porta al lento disfacimento dello Stato sociale medesimo, perché tu sei dentro un'economia che funziona su scala globale e in cui i capitali possono viaggiare globalmente, e devi istituire una forma di controllo di quell'economia su base locale, e perché in questo momento, se si parla a partire da una prospettiva di un paese come l'Italia, la demografia non ti aiuta. Siamo in l'età mediana ha superato abbondantemente i 48 anni e è molto difficile in un paese che demograficamente non cresce salvare i livelli di assistenza sociale con una popolazione che invecchia. È proprio una questione tecnica. Questa è la prima forma di catecon. Una seconda forma di catecon è quella dei populismi di destra. Perché questo? Perché lo vediamo con Trump, credo che lo cominciamo a vedere con Trump. Trump ha voluto essere fedele alla sua parola protezionistica e ha cominciato a istituire dei dazi. Si è reso conto, comincia a rendersi conto, che questa roba non può funzionare. Persino gli Stati Uniti si stanno rivelando troppo deboli per invertire la logica globalizzata dell'economia interconnessa. Ma non è solo questo il punto. Il punto è che la battaglia culturale, politico-culturale, etico-politica, nella quale Trump è impegnato, quella per fermare l'emancipazione liberale, no? Per fare in modo che appunto i sessi siano due, eccetera, il woke scompaia e compagnia, questa battaglia si scontra con un progressivo mutamento dei costumi che fa sì che per le nuove generazioni, per osmosi, certi comportamenti, certi modi di essere, certe identità che prima erano considerate inaccettabili o proibite sono normali. Così come il multiculturalismo, la convivenza a fianco del diverso, con cui magari hai fatto le scuole elementari, il bambino cinese, il bambino albanese e il bambino marocchino sono stati i tuoi compagni di scuola. Più difficile poi, quando diventi, quando vai a votare, sviluppare una forma di fobia. Magari la declini diversamente, però il mondo va in quella, l'ethos va in quella direzione. Dunque questa si rivelerà, credo, nella forma in cui si dà adesso, una battaglia di retroguardia. L'unico modo, aggiungo, che populismi di destra avrebbero per sconfiggere l'emancipazione liberale è una forte immissione di popolazioni che provengono da culture più conservatrici delle nostre, però queste popolazioni sono gli stesse che i populismi di destra non vogliono, perché sono i migranti brutti e cattivi, magari musulmani tradizionalisti, che fanno paura a Donald Trump. E questo è un paradosso, però è un paradosso in cui si trovano presi. Io sono contento che si trovino presi in questo paradosso, perché non mi stanno, non sono la mia parte, dunque sono contento che falliscano da questo punto di vista. La terza forma di catecone è quella delle forze sistemiche, delle forze che vogliono continuare lungo la strada degli anni 90 e degli anni zero. Perché? Perché la tendenza dello spazio mondo è quella di spostare la ricchezza e dunque il potere a Oriente. Quindi se tu stai dentro questo gioco che tu stesso hai istituito, uno degli effetti di questo gioco è che la Cina è diventata sempre più potente, l'India sta diventando sempre più potente, tolto l'India e la Cina, il sud-est asiatico, sapete che la metà della popolazione è concentrata oltre la metà della popolazione mondiale è concentrata tra India, Cina e sud-est asiatico. Ecco, queste zone del pianeta diventano progressivamente sempre più ricche e sempre più potenti. Quindi anche quella rischia di essere una forma di catecone. Se poi vogliamo metterci anche un'ulteriore forma di riflessione, che nel libro non c'è, ma che mi interessa molto, ne so troppo poco per parlarne, ma siccome il libro è scritto presupponendo la tragedia della cultura, tanto vale accennarla in questa sede. Qual è il soggetto politico che negli ultimi 30 anni ha portato 850 milioni di persone fuori dalla soglia di povertà, realizzando uno sviluppo economico che non ha precedenti, ha pochi precedenti nella storia, ed essendo oggi proiettato nel futuro grazie alla propria solidità interna alla videosorveglianza cui sottopone i propri cittadini? Il Partito Comunista Cinese, l'ultima forma di leninismo che accetta il capitalismo, perché questa è una cosa interessante, rimasto confuciano leninista, rimasta nel pianeta. Una forma, diciamo, molto trasformata di socialismo reale, che poggia su una società civile violentemente capitalistica. Ecco, questo monstrum, di cui so troppo poco, però mi affascina molto. E loro non hanno problemi di catecone. Cioè, loro non pensano in termini di salvare il salvabile, di rallentare il corso del mondo, non hanno paura del futuro, noi sì. I discorsi politici occidentali sono dominati dalla paura del futuro, a destra come a sinistra, quelli cinesi molto meno, mi sembra, per quanto se ne sa, ripeto, stiamo parlando di, non dico come parlare dei marziani, però comunque possiamo parlare di qualcosa che non conosciamo, io non conosco dall'interno. Dunque stiamo parlando di un'alterità che vedo da fuori. Questo, aggiungiamo un'altra cosa, che se c'è un discorso, e questo ritorna al titolo senza riparo, penetrato nel pensiero politico, nella discussione politica occidentale diffusa, questo lo scrive Massimo De Carolis nel suo ultimo libro, se c'è una cosa davvero nuova da questo punto di vista nella forma in cui si manifesta oggi, con l'intensità con cui si manifesta oggi, è che la fine del mondo, il discorso apocalittico, è entrato a pieno titolo nei discorsi politici correnti e nell'immaginario. Pensate alle serie televisive, pensate alla quantità di serie televisive o di film o di romanzi nei quali la fine del mondo in un modo o nell'altro è contemplata. E questo è il segno, appunto, che tu hai paura del futuro. La fine del mondo essendo la proiezione del fatto che il tuo mondo sta finendo, appunto diceva Lucaccio, l'ho detto in tanti, ogni immaginario apocalittico è innanzitutto la proiezione del fatto che tu sai che il tuo mondo sta finendo. Ecco, questo è parte del nostro discorso politico. A appunto, con un'altra frase che ancora non abbiamo citato, ma che a questo punto dobbiamo citare, è quella classica di Max Fischer, che nonostante ciò è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo oggi. No, ma anche da qua si sente, no Paolo? Ora, scusa, sì. Lasciamo stare quest'ultimo versante apocalittico, cioè, insomma, molto, molto, molto interessante, molto problematico anche, perché tu giustamente presenti questi termini come, come una sorta di costellazione anche metaforica, perché questo è già De Martino, il famoso libro Incompiuto la fine del mondo, presentato per ritornare globalmente su alcuni punti del libro che io ho letto, ho apprezzato molto, perché riesce a mettere insieme un libro profondamente unitario, per quanto composto di saggi come presentato, che parlano apparentemente anche di oggetti diversi, però questi oggetti tra loro eterogenei rimandano di volta in volta l'uno all'altro, si incastra. Quindi è davvero una prospettiva che raramente completamente si ha, perché in genere la pubblicistica, anche politologica, il livello si occupa di singoli settori, singoli argomenti, Trump, il populismo, c'è tutta la letteratura sterminata su quello che è stato pandemia. Poi invece gli argomenti si intrecciano profondamente. Questo disincanto, io anche mi ha citato Zimmer, un autore caro di entrambi, la tragedia della cultura, siamo d'accordo. Però accanto a questo disincanto, quello che ho percepito nei discorsi anche fatti da te oggi e tra le varie pagine del libro, è comunque una sorta di trasparenza semantica accordata a una serie di concetti usati con una nomenclatura data da te una volta per tutti e non con quella problematicità che oggi dimostra. Per esempio, c'è un capitolo molto bello sugli impiegati, ha parlato della classe media, di questo voto oscillante della classe media da una parte o dall'altra, ma la classe media è quella che non è quella di Krakauer, è la classe oggi proletaria, è il nuovo proletariato, perché il vecchio proletariato ovviamente non esiste più, la classe media è il nuovo proletariato. Quindi parlare di classe media come questo baricentro che c'è stato, ma oggi dal mondo del Bundesdruck, che è citato con grande finezza e intelligenza nelle ultime pagine, ma siamo distanti come dalla fine dell'impero romano. Secondo me la distanza proprio non ovviamente storica, ma la distanza proprio in termini di vita vissuta, è un altro, è tutto un altro mondo. Poi, quel concetto che mi sembra da te usato anche nel dibattito con grande efficacia, ma come se fosse tutto il neoliberismo. Ma il neoliberismo si è frantumato, è in crisi profonda. Hai citato il libro del quale in passato abbiamo anche parlato, di una persona che conosciamo, che è il libro più intelligente uscito su questi temi, quello di Massimo De Carolis, ma non l'ultimo, il penultimo, Il rovescio della libertà, edito da Podlin, un libro di grande intelligenza, spessore filosofico, un filosofo della Bolivia, in cui dice che il neoliberismo ha una contraddizione intrinseca in sé che lo ha portato a una crisi perenne, per cui cerca di rimettere insieme i frammenti di un potere che si è dissolto, e che quindi per consolidarsi è costretto ad accentuare la sua forma impositiva di imposizione. Perché? Perché ha perso di potenza. La contraddizione tra potere e potenza, tra una potenza, una capacità di espansione illimitata che è alla base del neoliberismo, e invece un continuo bisogno di rimediazione, rendendolo schiavo dei singoli regimi politici. Completamente frantumato nella sua ossatura tradizionale. Allora ti chiedo, questi concetti non andrebbero rivisti alla luce anche del loro intrinseco naufragio? Possiamo ancora parlare di economia globale? La globalizzazione è diventato l'universo è l'anarca di Hunger, è il regno dell'anarchia. Non era nata così, perché giustamente, il punto fondamentale sul quale tu insistimi, l'economia si è autonomizzata completamente alla politica. E dunque la globalizzazione è il regno selvaggio dello scambio, il regno selvaggio del profitto. Però se parlare di questo significa non dare queste categorie, renderle non come le categorie egemoni del presente, ma vederle nella loro fragilità. Quindi un pensiero forse più debole può interpretare il presente in termini adeguati. Dunque, da un punto di vista generale è chiaro che ogni concetto che si usa, ogni forma di astrazione è meritevole di decostruzione e di approfondimento problematico. Dunque, in linea di principio è vero che si sarebbe potuto dovuto sottoporre ogni universale che si usa in questo discorso ha una problematizzazione. È anche vero però che così facendo avrei assecondato la tragedia della cultura, nel senso che mi sarei avrei scritto dei libri su, avrei provato a scrivere con le competenze che non ho, dei libri su argomenti singoli, perdendo di vista il tentativo problematico e saggistico, cioè in senso etimologico, di prova, di cercare di provare a trovare una sintesi. Quindi da un punto di vista teorico è vero, si sarebbe potuto, dovuto fare, eccetera, è anche vero però che il risultato sarebbe stata l'assenza di un libro di sintesi. Dovevo accettare a un certo momento di tagliare, di trattare le ombre come cosa salda e fare con quello, con i concetti che avevo. Naturalmente sono ben consapevole che queste cose sono altamente problematiche e sono oggetto di numerosi e crescenti approfondimenti. Sì. Una domanda più terra terra, come direbbe la mia analista. E questa cosa che dicevi poco fa e che poi è scritto anche nell'introduzione, cioè che nessuno è in grado di scrivere un libro oggi di politica, teoria politica, perché appunto è un tipo di sapere che implica una serie di competenze che non possiamo possedere, e però al tempo stesso siamo anche nella società che ci induce a vivere in modalità di intervista permanente, per cui ogni mattina, anziché leggere il giornale, scriviamo il nostro post su Facebook, sui fatti del giorno. Ecco, tu dici appunto non c'è nessuno in grado di scrivere questo libro. Mi stavo domandando, mentre tu lo dicevi, E c'è qualcuno in grado di leggerlo, nel senso a che tipo di lettore pensavi mentre lo scrivevi? Cioè, ho premesso che sarebbe stata una domanda come te. Beh, io spero che ci sia un pubblico, anche perché questo libro si deve vendere, cioè la terza è stata così generosa, non è che possiamo fargli fare un buco nell'acqua economica spaventoso, no, spero che un pubblico ci sia. Diciamo, questo è un libro che da un punto di vista del genere letterario, volendo, diciamo, l'essere situato di chi l'ha scritto unito al genere letterario, è, volendo, la versione aggiornata di quei libri che gli scrittori pubblicavano 50 anni fa. Ora, Siparva Licet, e con tutte le proporzioni del caso, è appunto, sono i libri che X, Y e Z, cioè scrittori nati dagli anni 10 e gli anni 20 del Novecento, scrivevano, pubblicavano tra gli anni 60 e gli anni 70. Verifica dei poteri, gli scritti corsari, questioni di frontiera, sono quei libri lì. Questo è il genere letterario. All'epoca qual era la grande differenza? Tante, oltre alla capacità diversa degli autori dei libri medesimi. La differenza è che, per semplificare, all'epoca esistevano ancora i due grandi semplificatori del dibattito politico che hanno accompagnato la storia della modernità. Uno è una figura che è l'intellettuale, con il credito che aveva, il vecchio intellettuale, eccetera, e accompagnato anche da quell'intellettuale collettivo che erano gramscianamente i partiti, in particolare il partito, da un lato, e dall'altro esistevano quella cosa chiamata ideologia, cioè quegli grandi apparati di semplificazione cui si dava una verità, si attribuiva una forma di verità. Guardandoli da vicino ci si rendeva conto che l'ideologia erano apparati di semplificazione, cioè che vivevano la tragedia della cultura anch'esse, non la tematizzavano, facevano come se, perché se no non sarebbero state ideologie. Gli intellettuali a loro volta erano delle figure che si attribuivano un potere e una capacità di analisi che, vista nel dettaglio e sottoposta allo scetticismo di chi appunto decostruisce, si chiede sulla base di quali studi e quali fondamenti tu dici questo, sottoposta a questo tipo di critica, anche gli intellettuali sarebbero andati molto probabilmente in crisi. Oltretutto, il primo Novecento è pieno di testi che inscenano la messa in discussione delle certezze intellettuali. Uno, il più grande di tutti, è L'uomo senza qualità di Musil, in cui appunto Ulrich si mette a personaggio che pare autobiografico di Musil, comincia a mettere in discussione le certezze del discorso culturale, politico, filosofico della sua epoca, e le fa a pezzi tutte. La capacità di mettere in crisi, fare a pezzi gli intellettuali, c'è sempre stata. Però in certe epoche intellettuali e ideologie se le passavano nettamente meglio di quanto non se la passino oggi. C'è anche da dire appunto che all'epoca, per esempio, ciò che faceva la forza degli intellettuali erano alcuni fenomeni che loro non conoscevano e che noi conosciamo. Il primo era il dilagare, in senso lato, all'epoca c'era già, ma non aveva l'importanza che ha per noi, della cultura pop. Noi siamo figli di due culture, siamo bilingui culturalmente, tutte le nostre generazioni. Da un lato abbiamo la cultura che abbiamo imparato a scuola, che è quella di Calvino, Fortini, Pasolini, eccetera, eccetera, e dall'altro abbiamo la cultura, chiamiamola pop, in senso lato, la cultura che abbiamo appreso dal cinema commerciale, la televisione, i giornali non colti, poi internet, poi social network, eccetera. E questa cultura ha acquisito enorme importanza, enorme credito. Le nuovi opinionisti spesso provengono di lì. Se guardiamo intorno, siamo in una libreria, quindi dovremmo essere nel tempio della cultura di vecchio tipo, se guardiamo chi ha scritto i libri, vediamo che, ora non so quantificare, ma diciamo una volta su tre l'autrice, l'autore di questo libro è noto perché, non perché viene dalla alta letteratura, dall'università, no, perché è noto all'interno del contesto mediatico pop. Dunque c'era questo. L'altra cosa che non c'era, che ha dato un'ulteriore sferzata al prestigio intellettuale, sono i social network, cioè web 2.0, che ha cambiato tutto, ha fatto saltare il banco. La sfera politica contemporanea, la discussione pubblica contemporanea, non si spiega senza il web 2.0. E anche i populismi di destra, né di destra né di sinistra, neanche questi fenomeni avrebbero avuto la forma che hanno avuto senza il web 2.0. Il populismo figlio della televisione non ce l'abbiamo avuto in casa, però non a caso il tipo che ha portato il populismo, il primo populismo di destra al potere, capo della televisione, era comunque l'incarnazione della cultura pop. Come era il padrone in qualche modo della più grande fonte di cultura pop di questo paese. E quando entrano questi fenomeni, gli intellettuali, le ideologie andavano combattendo ed erano morte da un punto di vista dell'azione, non spero da un punto di vista dell'intelligenza della cosa. Un'altra domanda. Poi magari, perché vedo... L'ultima possiamo fare. Tanto eri preparato a questo film. Io volevo chiedere, lei è poeta, quindi scrive poesia, ha scritto di poesia, e come si inserisce la poesia nella sua... cioè dove si incontra la politica e la poesia nella sua esperienza, in questo discorso? E la rivoluzione poetica ha vinto, ha perso? Non in senso storico, proprio in senso epistemologico, esistenziale, grazie. Dunque, per ora questo libro ha avuto una sola recensione, però bella. E questa recensione l'ha scritta Lorenzo Marchese su il supplemento culturale nuovo del secolo XIX, bellissimo, primo numero straordinario, veramente straordinario, che conteneva tante cose belle, e c'era un piccolo pezzo su questo libro che cui sono molto grato, perché diceva una cosa, cioè parlava anche del fatto che io scrivo poesie, e diceva invece di scrivere poesie virgolette impegnate, cioè di mettere questi temi sotto forma di engagement nella poesia, è come se questa fosse la sede dei discorsi sulla... poi non so se sia totalmente così, però mi piaceva questa idea, cioè che non provo a scrivere le poesie impegnate col fervorino finale su eccetera, ma scindo le due cose, e questo secondo me è una buona cosa, credo, è una buona cosa. E poi per il resto, appunto, la poesia non muta nulla, questo l'ho detto io, e io credo sia questo, cioè già questo libro è scritto da una prospettiva di osservazione, a maggior ragione la poesia ha una prospettiva di osservazione, non di indicazione di una via, di eccetera. Appunto, la mia posizione in questo libro, a maggior ragione delle poesie, è quella dell'osservatore, non è quella di chi indica una via. Qui osservo in forma saggistica, in poesia sviluppo un altro tipo di discorso. C'è un poeta che vuole la parola. Post-poeta. No, volevo dire semplicemente che mi è piaciuto moltissimo la notazione che hai fatto a proposito delle generazioni che vengono, e quindi di quelli che probabilmente nel senza riparo ci sono nati, anche perché probabilmente la gran parte dei materiali con cui si confrontano sono proprio materiali multimediali di questo tipo, cioè che li gettano proprio nel senza riparo. Pensiamo soltanto ad alcuni videogiochi o appunto a tutte le forme di comunicazione, dai film ai cartoni animati, che appunto già si installano in un luogo dove non c'è più nessun tipo di riparo. E tu hai citato giustamente le serie televisive. Basta, volevo dire semplicemente questo, e quindi così chiudere con una scintilla di speranza. Sì, diciamo. Stiamo facendoci amare dai giovani, dicendo che una delle idee di cui sono più fiero e che compare nel saggio su Berlusconi è che siano appunto ormai diventati adulti, pienamente adulti, giovani, donne e uomini, le generazioni che possono essere considerate in senso proprio native berlusconiane. Cioè generazioni che non hanno memoria di un mondo nel quale Berlusconi e ciò di cui Berlusconi è il nome non esisteva. Ora, questo è da un lato un problema e dall'altro un'opportunità. Laddove c'è il pericolo, lì cresce ciò che ti salva, diceva un altro poeta. E ovvero queste generazioni che hanno lo spirito del tempo, un rapporto sicuramente più sorgivo di quello che posso avere io, magari possono trovare il modo di navigare nello spirito del tempo con idee inedite che a me non possono venire, ma semplicemente perché sono situato in un punto diverso della scala storica. Ecco. E quindi essere native berlusconiane è allo stesso tempo un segno e però un segno nel duplice senso della parola. Ecco, vi ringrazio molto, grazie a Giulio Antonio, grazie a Anna Gianluca, senza la quale un libro non esiste. Grazie. Chiudo la registrazione. Certo.